Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Avevamo già accennato qualcosa nella trasmissione di ieri, oggi vorrei entrare più in merito all'idea che esista un popolo della rete, che esista una filosofia della rete e soprattutto che esista una modalità di gestione della democrazia attraverso gli strumenti della rete. Ricordo la frase che avevo già accennato, uscita sui giornali di ieri. Beppe Grillo ha detto: esisterebbero da mesi orde di trolls che scrivono 2-3 mila commenti al giorno sul blog. Qualcuno li paga, sono schizzi di merda digitali. Questo mi porta a pensare, non entro in merito, non è una trasmissione politica, nessuno la prenda come tale. È una trasmissione fatta da osservatori dei fenomeni della rete, da precursori di tutto ciò che circola attraverso la rete, da osservatori e tecnici della rete. Su questa idea che quello che noi, ma per scelta anagrafica, non tanto per meriti personali, almeno parlo per me, da qualche decennio ci muoviamo in rete. L'idea del troll, inteso come personaggio mosso da oscure forze tendenti alla conservazione, che si muova negli spazi di libertà per inquinare con la sua presenza nefasta quelli che sono i liberi scambi, le libere interconnessioni fra le persone illuminate, che hanno capito che in realtà la rete è il vero unico strumento di diffusione del pensiero libero, sciolto, non ottenebrato, è qualcosa un po' anni 90. Cosa significa troll? Lo spiego, non è che a tutti debba essere necessariamente chiaro questo termine. Il troll, oltre a essere un personaggio preso dalle saghe fantastiche del mondo della fantasy, una specie di essere privo di intelligenza, privo di raziocinio, che vagheggia e disturba e rompe, spacca, perché? Perché è un bruto. Il troll in realtà, ma è un termine che risale ai news group degli anni 80, forse anche prima, sono persone che, non avendo nulla da fare nella vita, non avendo gratificazioni nella loro vita concreta, si muovono negli spazi di interconnessione della rete facendo i bastiani contrari, portando sempre delle posizioni opposte, antitetiche, veementi rispetto all'oggetto della discussione in un gruppo di discussione. Vedete com'è datato il termine, il troll oggi nel mondo dei social network è molto difficile, che il social network è sotto gli occhi di tutti, una condivisione continua. Il troll entrava in un gruppo di discussione e faceva il bastian contrario, mandava messaggi su messaggi su messaggi, più gli si rispondeva e peggio era, tanto che la regola era: il troll non va alimentato, mai nutrire un troll. Quando c'è un troll si fa finta di nulla, poi alla fine si elimina da solo. Il fatto che oggi l'idea della trolleria sia riportata come una realtà legata a tutta una serie di altri pensieri, sottopensieri e tutto, fa molto sorridere a quelli che come me hanno una sorta di militanza, non è il termine giusto, ma di frequentazione antica della rete. E su questi, con altre persone che appartengono un po' alla mia generazione di pensiero, vorrei confrontarmi questa mattina quanto realmente, valutazione già fatta, mi si scusi la lunga introduzione, la rete possa essere considerato come una sorta di Eden, di paradiso terrestre, il luogo di massimo raggiungimento di tutti gli equilibri, il vertice più alto dell'umanesimo, e quanto in realtà oggi quello che viene raccontato della rete, che molte persone impressiona, molte persone si sentono in dovere di andare a seguire questo trend, sia in realtà una visione forse un po' passata della rete, ma questo è un punto di vista. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Andrea, saranno 4-5 anni che con te parliamo, discutiamo, saggiamo, entriamo, non per questo ci consideriamo dei veterani, ma avresti mai immaginato e supposto che fra i tanti record del nostro paese ci fosse questo, che tutto ciò che nella rete abbiamo visto, osservato, guardato anche con curiosità, ma non certo considerando che fosse un fenomeno di avanguardia, oggi sia considerato come un'avanguardia di pensiero? Ma ti, stupisce fino a un certo punto, perché come abbiamo già detto più volte, il problema, il digital divide che oggi colpisce l'Italia, non è più solo o non tanto di carattere tecnologico quanto di carattere culturale. La rete viene vista come una sorta di magia in grado di fornire risposte o soluzioni, più o meno tutto quanto. Allora, pochi minuti fa mi sono confrontato con uno studente che mi contestava l'uso di un verbo italiano dicendomi che su Google ha scritto così. Gli ho detto: peccato che nella grammatica che io sto consultando abbia ragione io. Però lo studente era convinto che la versione giusta di questo verbo fosse quello che lui aveva trovato su Google. Perché la rete in Italia viene vissuta come uno strumento in grado di fornire tutte le risposte anche al di là di ogni buon senso, e soprattutto le risposte che vengono date dalla rete sono prese con pochissimo senso critico. Questo è forse il problema fondamentale dell'uso della rete oggi in Italia. Ma tu sei convinto che questo sia veramente lo spirito di chi si muove come avanguardia della rete? In altri paesi non credo che accada questo. La celebrazione di un aspetto, se vuoi, antropologicamente interessante, ma appartenente comunque a una fase giovane della rete, non può essere oggi considerato come il punto più avanzato. Che oggi si meravigli, non so, della velocità con cui sia possibile trasferirsi delle informazioni, che oggi venga considerato un punto di vantaggio, qualcosa trasmesso via streaming rispetto a una realtà concreta solo perché viene trasmesso via streaming. La rete non sta entrando in una fase di pubblica celebrazione superstiziosa, legata a delle credenze quasi animistiche, che non fa proprio parte di quello che la rete significa di progresso dell'umanità. Certo, un grande scrittore di fantascienza degli anni 50-60 scriveva che quando una tecnologia è abbastanza complessa è fondamentalmente indistinguibile dalla magia. Ecco, in Italia si ha veramente questo atteggiamento magico. Anziché cercare di usare lo strumento rete in maniera matura, lo si usa un po' come prima ci si volgeva al santo protettore piuttosto che a fonti di informazione di altro genere. Beh, insomma, i nostri nonni dicevano: no, l'ha detto, è vera una cosa perché l'ha detta la televisione. Oggi non la dice più la televisione, ma la dice in qualche maniera la rete. E questa mancanza di distacco dal medium, che viene considerato veramente in qualche modo di per sé salvifico il problema, purtroppo è davvero diffusa questa cosa in Italia, ma non semplicemente tra coloro che della rete, diciamo, si occupano, cioè di coloro che non si occupano della rete, ecco, ma anche tra coloro che scrivono sui giornali di questi argomenti, proprio perché è una mentalità veramente, come dicevi tu, anni 90, di quando nella rete si era veramente pochi, non c'era ancora il web, ed effettivamente lì forse all'epoca si poteva parlare in qualche modo di una comunità, cioè di persone che tendevano tutte nella medesima direzione, tutti avevano tutto l'interesse a far vedere che la rete funzionava. Oggi non è più così, insomma, fenomeni dell'epoca sono completamente stati stravolti dall'avvento non più di poche centinaia di migliaia di utenti, ma di milioni di utenti. Il caso forse più eclatante è eBay, no? eBay si è necessariamente dovuto trasformare in una sorta di vetrina per i negozi, perché le persone avevano iniziato ad approfittare della fama che avevano ottenuto su eBay per truffare gli altri. Questo mi sembra davvero significativo. Allora, Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Responsabile del blogmeter.it, che è un servizio di ascolto di social media dove misura e valuta mensilmente la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici, politici nei social media e via dicendo. Sei d'accordo che in realtà lo spirito più autentico della rete, cioè dove la rete si muove pensiero, dove nella rete si avvengono dei fatti, le interconnessioni, sia su un piano diverso rispetto a questa sorta di lavagna divisa a metà fra i buoni e i cattivi? I cattivi sono quelli che disturbano, e se disturbano c'è qualche potere forte che li muove da dietro. Tu hai visto delle flessioni negli ultimi mesi, in cui di rete se ne parla anche a livello di istituzioni, di confronto politico, rispetto a questo problema? Ma guarda, devo dire che la rete è un ecosistema, questo forse Grillo ancora non l'ha ben chiaro, no? Un ecosistema cui noi tutti contribuiamo alla sopravvivenza, e anche quindi, come dire, chi di troll perisce, nel senso che se utilizzi la rete per attacchi indiscriminati, eccessi, estremismi, è facile trovarsi anche poi un pubblico, coltivare un pubblico di eventuali troll, che però molto spesso sono semplice dissenso, quindi non sono, come dire, troll organizzati come magari Grillo vorrebbe farci credere. Quindi dobbiamo un po' coltivare un utilizzo della rete, una rete che sia più attenta al dialogo più che agli attacchi, alle invettive. Ma in realtà in una gestione corretta, anche di un proprio profilo in un social network, il troll si autoelimina da solo attraverso il dibattito, se c'è capacità di interloquire, di ribattere. Molte volte anche i toni accesi tipici del troll, che subito ti attacca, subito è veemente, subito va con la mazza, si smonta in quattro battute. Mi sembra più un fenomeno legato a quando la rete aveva strumenti diversi, appunto il newsgroup in cui tutti scrivevano la loro e il troll ti mandava 200 messaggi la mattina, non sapevi come fare, dovevi toglierli per forza. E soprattutto, come dicevi tu, si smonta, diciamo, non dando alimento al troll, quindi scrivendo un post sui troll non si fa altro che alimentarli, tant'è vero che anche il tweet che rilancia il post di Beppe Grillo di ieri è proprio il tweet più rilanciato in rete ieri, con una serie di commenti che anche lì lasciano spazio a molte critiche, quindi è proprio il ecco, qual è stata la ricaduta nei social network dell'idea della denuncia del popolo dei troll prezzolati? Se ne è parlato molto, soprattutto perché appunto è stata interpretata, diciamo, questa nuova invettiva di Grillo come un voler considerare buona la rete soltanto nel momento in cui fa comodo, mentre in questo modo si è un po' scacciato via il dissenso e si è un po' mascherato da fake, da troll e da cosiddetti multinick che lui, quindi c'è un sentimento davvero un po' negativo verso questa nuova butata di Grillo, soprattutto da parte di chi invece in realtà nella rete crede da tempo. Ti faccio una domanda tecnica, Cosenza. Se oggi volessi realmente costruire uno strumento di disturbo o di disequilibrio rispetto agli equilibri naturali del dibattito in rete, cosa userei invece dei troll? No, ma si può fare anche benissimo con i troll, con dei multinick. Quello che penso io è che probabilmente questo tipo quindi di... Quindi non esseri umani tanti, ma semplicemente dei piccoli programmi che moltiplicano... Sì, dei bot, assolutamente sì, dei bot, ma il problema è che non si risolve nulla, perché è molto facile scoprirli, tipicamente scrivono sempre le stesse cose. Gli stessi, diciamo, sostenitori di Grillo sono stati scoperti poco tempo fa a trollare nella pagina di Facebook di Monti. Per cui insomma è un fenomeno in qualche modo abbastanza diffuso. Che ci sia un'organizzazione dietro, onestamente è difficile dirlo. L'efficacia secondo me è assolutamente inutile prima di me. Ecco, Alessandro Lanni invece, questa mattina ho chiamato delle persone che io stimo e reputo conoscitori profondi, perché ci lavorano nella rete, la osservano, è strumento quotidiano della loro osservazione e della loro produzione anche professionale. Quindi per questo faccio domande e do un tono diverso alla trasmissione. Una trasmissione in cui pongo delle domande e cerco di avere comunque delle letture aggiornate. Sono convinto che le letture che mi danno questa mattina sono le più aggiornate possibili rispetto al pensiero della rete. Alessandro Lanni, buongiorno. Buongiorno. Alessandro Lanni, ricordo che è un docente di giornalismo politico alla Sapienza, autore di un ebook intitolato Enigma Grillo, che aveva pubblicato Avanti Popoli, prima Piazza TV Web, dove va l'Italia senza partiti, Marsilio Edizioni. Quindi ha una sorta di occhio profetico su quello che sarebbe accaduto, su questa sorta di osmosi, di transumanza del pensiero della rete con tutto quello che c'è dietro, di buono, di cattivo, di folcloristico, di concreto e di reale, nel mondo del dibattito reale, concreto, che è quello che riempie i titoli dei giornali. Non noti dietro questa idea dell'identificazione di un nemico comune? Oggi il nemico comune è il troll, come in altre epoche altri erano i nemici che impedivano comunque l'evoluzione, la crescita dell'importanza del pensiero positivo, reale, concreto. Il bene della popolazione viene minato da un nemico oscuro, oggi viene identificato nel troll. Diciamo, questo è un tratto abbastanza tipico del modo di ragionare di Beppe Grillo, no? Non da oggi peraltro. L'idea, in fondo, quando noi parliamo della democrazia così come la intende Grillo, lì c'è un'ambiguità. La democrazia così come l'ha in mente Grillo è fondamentalmente referendaria, no? Tutti possono votare, tutti possono dire però cosa, sì o no, o con noi o contro di noi, e questo si rispecchia in tutto questo tipo di atteggiamenti. Questa ricerca continua che c'è in questi giorni di un nemico, no? È stato Floris che ha parlato in un certo modo l'altra sera da Fazio, sono i troll che ce l'hanno contro di noi, pagati da non si sa chi in questa epoca di vacche magre. la Boldrini e Grasso. Ieri mattina c'era una critica forte di Cancelleri abbattiato. Ecco, o con noi o contro di noi, mi sembra che sia un po' l'idea di fondo che c'è dietro l'immagine della democrazia di Beppe Grillo. Questo, se ci pensi bene, però è un tipico dibattito binario che era nei periodi meno maturi della rete, in cui erano forti le idee rappresentate e lo scontro avveniva con stai con me o stai contro di me. Non stai con me, quindi ti banno, quindi ti metto fuori, quindi ti impedisco di entrare. L'essere bannati nei luoghi di discussione dei Movimenti 5 Stelle è molto semplice, ho fatto anch'io la prova, basta semplicemente esprimere anche educatamente un pensiero differente e si scompare. Andrea, sì, Rossetti, poi... sì, dimmi Lanni. Sì, poi sono usciti appunto in questi giorni diversi articoli che appunto approfondiscono questo aspetto, e non si tratta sempre solo di ban, cioè di esclusione o di cancellazione del post che è scomodo. Sono cose anche più sottili, di nasconderlo, non viene cancellato, ma gli si abbassa, come si dice, il rating, no? La quantità di voti positivi che quel tuo commento ha ricevuto, così che il post scomodo scende nella classifica, né? Quindi diventa di fatto invisibile, ecco. Strumenti ce ne sono. Sì, ma come se poi in realtà... il numero dei like o il numero dei consensi significasse qualcosa in concreto. Parliamo sempre di numeri astratti, parliamo sempre di porzioni di popolazione non rappresentative. Quello che avviene in rete è un indicatore, può avere un interesse, suscita, è divertente stare nel dibattito, ma non ha in sé un valore assoluto. Certamente no, non ha. Anche se c'è da dire che una finestra come quella del blog di Beppe Grillo in questo momento è molto vista direttamente e è molto raccontata sui vari mezzi di comunicazione, sui giornali, in televisione. Quindi diciamo, comunque quel che accade lì è qualcosa di significativo in questo momento. Questa è un po' l'ingenuità dei media tradizionali, che in realtà tutte le volte che c'è un fenomeno in rete, ricordo le passate, gli entusiasmi dalla rete in sé, da Second Life, dai primi social network, ultimamente per Twitter, ogni tweet diventa un titolo, sembra che lì accada qualcosa che non accade più nel mondo. Anche questo, c'è un po' di ingenuità molto provinciale, non trovi? Certamente, quando già 2-3 anni fa iniziavamo un po' a guardare il fenomeno Grillo, del politico Grillo, notavamo questa superficialità nel trattamento giornalistico che veniva fatto, che in sostanza schiacciava il nuovo politico sulla rete. Quindi Grillo era il nuovo perché usava la rete, e questo denunciava da una parte diciamo una superficialità dal punto di vista dell'analisi del fenomeno rete da parte dei giornali, trattandoli come un unico, ovviamente, cioè erano persone che ne parlavano già allora in maniera adeguata, e dall'altra un'incapacità di vedere quel movimento effettivo che c'era e che poi ha trovato il suo canale in Beppe Grillo. Allora, Andrea Rossetti, vediamo se riusciamo allora a stabilire questo grosso paradosso. Troviamo in un paese che apparentemente, per chi ci osserva da fuori, è all'avanguardia per il fatto che qualcosa che nasce nella rete, qualcosa di spontaneo, qualcosa di totalmente, e in questo un grosso merito, antitetico rispetto alle mucillagini, alle stratificazioni, ai vecchi partiti, a certi meccanismi che sembravano non più funzionare ma rimanere staticamente in vita proprio perché si autoproduceva una sorta di partenogenesi interna, erano sempre gli stessi, sembrava che come la leggenda dell'uomo mascherato, che l'uomo mascherato entra in una grotta e riesce fuori, ma in realtà è il figlio con la stessa maschera, ma sempre lui, cambia sempre. Ecco, detto questo, però c'è un sistema ufficiale di comunicazione che dà corpo però a tutte le incongruenze e a tutte le banalità di questo sistema qua, perché non è abbastanza attrezzato. Abbiamo avuto un'informazione mainstream che non ha mai saputo valutare sufficientemente, con i sufficienti strumenti tecnico-scientifici, quello che accadeva in rete. Ma direi che il problema è un po' proprio questo, insomma, molti giornalisti ancora oggi si rifiutano in qualche modo di riconoscere la realtà della rete come realtà informativa, e appunto viene un po' contrapposto, no? Come se fossero modi o modelli di informazione completamente differenti. È chiaro che i nuovi strumenti costringeranno nei prossimi anni anche a ripensare ad esempio la figura del giornalista come intermediatore culturale che porta le notizie, però è anche vero che la figura del giornalista non scomparirà, insomma. Ecco, purtroppo... diciamo che il punto focale su cui riprendiamo riprenderemo fra qualche istante, dopo le informazioni della borsa, proprio l'intermediazione. Sembra che la mediazione sia al suo punto zero, non c'è più bisogno di mediazione perché uno vale uno, tutti siamo in rete, tutti esprimiamo il nostro parere. Ma è proprio vero, è come l'allievo il professor Rossetti che si era incaponito su qualcosa che aveva letto in rete su Wikipedia, che in realtà non è ancora detto che sia una sovrapposizione così totale e concreta sul vecchio antico sapere tradizionale, che era più sedimentato, aveva gli strumenti soprattutto diversi e molto più approfonditi e più articolati per sancire ciò che ha diritto di esistenza, ciò che invece appartiene al mondo del futile, del volatile, del sovrascrivibile. Melog, la realtà condivisa. Riprendiamo a riflettere su alcuni aspetti della rete, aspetti a volte interessanti, aspetti a volte di ipervalutazione di dati che circolano, di informazioni che circolano, di strati di informazione che proprio per il fatto che non appartengono alla lettura ufficiale sembrano essere dotati e caricati di un maggior senso di verità. Ciò che viene nascosto è perché esiste una sorta di consorteria generale di poteri forti, di poteri accreditati, di poteri che non vogliono abbandonare il loro privilegio, lo tengono nascosto, lo tengono occulto. Quindi noi attraverso la rete, attraverso questo strumento di grande democrazia e di grande circolazione anche di ciò che non dovrebbe passare, non riesce a passare attraverso le maglie ufficiali, impugniamo la verità, la realtà. Questo è anche interessante, questo non va escluso a priori, nessuno dice che non sia così, che non esista comunque un controllo generale su alcune linee di pensiero. Ma quando questo è applicato al campo della scienza, al campo della ricerca, al campo della medicina, può essere ancora trattato con uguale leggerezza e a volte anche con uguale ironia? Stefano Morigi, buongiorno, ricordo storico e filosofo della scienza. Buongiorno Gianluca, ma io credo assolutamente di no, ma neanche quando si parla di politica, perché per riprendere quello che stavate dicendo prima, trasformare sistematicamente il dissenso in troll, come si dice adesso, è una delle vecchie strategie di sistemi che con la democrazia avevano poco a che fare. Una volta si diceva sei un comunista, in altri tempi si è anche detto in maniera esagerata sei un fascista, semplicemente se avevi un pensiero leggermente contrario. Esatto, in una celebre opera che ha illuminato il mondo della scienza, della filosofia e anche della politica di un grande filosofo come Karl Popper, queste vengono chiamate teorie del complotto, che erano nemiche e non, come dire, fautrici della democrazia. Probabilmente sono la base di ogni omicidio di democrazia. Ogni attentato alla democrazia nasce sempre da un complotto: trovare dei colpevoli e punirli, eliminarli e gassarli. Adesso si chiama o dietrologia, appunto teoria del complotto. Alla base c'è comunque la delegittimazione del dissenso, ma il dissenso è fondamentale perché la macchina della democrazia funzioni, che sia reale, usiamo questo termine per intenderci, che sia digitale, le cose non cambiano assolutamente, quindi in questo caso non manca tanto e solo la conoscenza della tecnologia, ma manca la conoscenza di che cos'è e di come funziona una democrazia in quanto tale. Poi quanto più gli argomenti diventano sottili, delicati, come quelli della ricerca, le cose si complicano evidentemente ancora di più. Vediamo di fare qualche piccolo esempio, anche se poi gli argomenti sono anche di portata emotiva difficili da affrontare. In rete, vi sarà spesso capitato, circolano notizie di tutti i tipi riguardo la ricerca, riguardo appunto anche la ricerca applicata a terapie, applicata al progresso della medicina e via dicendo, e molte volte, e non escludo a priori, guardate, sono veramente leggero in questo, che possono esistere delle grandi pressioni delle case farmaceutiche, delle grandi organizzazioni che comunque attraggono profitto da tutto ciò che riguarda la cura e la terapia, comunque che sia così sovrapponibile e sostituibile tutto ciò che è rappresentato, la sperimentazione, la ricerca scientifica, l'attestazione di validità di un farmaco, di una cura, rispetto a una sorta di miracolismo che è sempre circolato in rete, non è un fenomeno che dovrebbe in qualche maniera preoccuparci, su cui vale la pena di riflettere? Penso assolutamente di sì. Di recente io stesso, dopo altri, persino in rete, mi sono permesso di criticare una campagna condotta Sicuramente con le migliori intenzioni anche da celeberrima trasmissione televisiva, affinché venisse concessa a una malata una terapia che però non era tale, non è ancora tale, non aveva ancora passato protocolli che la rendono tale e affidabile, quindi quei protocolli che sono una tutela per il paziente. E si è lavorato sulle emozioni, sulle speranze delle persone, però confondendo speranze e illusioni. E io questo lo trovo, non solo, per tornare al tema di prima, scorretto da un punto di vista democratico, ma anche scorretto dal punto di vista di chi non ha o non può avere le informazioni necessarie, e diventa a questo punto una speculazione sulla speranza e sulla, soprattutto sulla disperazione delle persone. Questo dico è un tema molto delicato, perché anche domenica sera le Iene sono ritornate in questo argomento, di fronte a una bambina sofferente, di fronte alla speranza dei genitori. È molto difficile mantenere il timone dritto, però su questo vale la pena di riflettere, perché è un tipico atteggiamento in rete. In rete, a fronte di ogni malattia, c'è sempre una catena che dice: noi abbiamo la cura, noi abbiamo il medico, che molte volte non voglio escludere che possano avere una loro efficacia, ma è giusto che tutto ciò che riguarda l'aspetto scientifico debba seguire un iter, che è un iter di protocolli accertati, condivisi. Sentiamo Gilberto Corbellini. Professor Corbellini, buongiorno. Buongiorno. Il professor Corbellini è ordinario di storia di medicina a Roma, uno studioso di bioetica, epistemologia medica, tra i suoi libri Scienza, quindi democrazia, Einaudi Torino 2011. Il professor Corbellini ha sottoscritto la lettera aperta che un gruppo di ricercatori e scienziati ha pubblicato sulla vicenda delle terapie basate sull'infusione di cellule staminali, è la vicenda di cui stiamo parlando, prendendo una posizione molto netta, critica verso il Ministero della Salute. Dice: un governo non può autorizzare, dice il professor Corbellini, una somministrazione di terapie improprie la cui efficacia non è dimostrata. Questa, se la mette nell'opinione di un qualsiasi gruppo in rete, naturalmente suona come un sasso nello stagno, qualcosa che va contro la pietas, contro il senso di diritto di salvare una bambina che è in condizioni disperate. Qual è il suo punto di vista rispetto a questo? Il mio punto di vista è che è effettivamente difficile per chi si vuole documentare solo superficialmente su questi problemi capire la sostanza etica prima che scientifica e, se vogliamo, regolatoria, insomma, della lettera che abbiamo sottoscritto, perché effettivamente è normale, siamo mossi in prima istanza dalle emozioni, cioè dalla bambina sofferente, eccetera, ma io studio storia della medicina e ricordo che per secoli e per millenni i pazienti proprio e i familiari, proprio partendo dalle condizioni di sofferenza, sono stati oggetto di truffe, di abusi, di sperimentazioni che hanno gettato spesso anche ombre sulla medicina, ed è stato grazie allo sviluppo di strumenti e di protocolli definiti che nei paesi occidentali si è riusciti ad abbattere gli abusi nei riguardi dei pazienti e anche a trovare i trattamenti efficaci per malattie molto gravi. Non si possono prendere delle scorciatoie, e soprattutto da parte del Ministero, da parte degli enti regolatori, se ci sono delle leggi, ci sono delle regole, queste vanno applicate perché sono a tutela dei pazienti. E poi soprattutto nella vicenda di cui stiamo parlando, secondo me, insomma, adesso le teorie del complotto vengono girate da parte di questi del metodo stamina verso coloro e gli scienziati che vogliono usare altre staminali, ma effettivamente qui siamo di fronte a degli inganni che sono perpetrati ai danni dei pazienti. Poi la rete ovviamente è uno strumento che amplifica prima di tutto una condizione culturale generale e diffusa in un paese. Che cosa manca secondo lei in questo paese perché sia preferibile, lo apro parentesi con pieno totale rispetto alle vicende umane, personali, dolorosissime, non vorremmo sembrare spietati, ma noi semplicemente vogliamo scindere tra ciò che il mondo ha costruito sbagliando, facendo aggiustamenti, con un margine di certezza dato dalla sperimentazione, dato dai protocolli accettati comunemente dalla comunità scientifica, e quello che in realtà ci piace anche a volte sentir dire che esista qualcosa di miracoloso, qualcosa di totalmente altro rispetto, che tutti hanno sbagliato, che esiste una sorta di ignoranza generale data, non lo so, dal fatto che siamo tutti vecchi, che non crediamo nell'innovazione. Ma qual è il punto di caduta? Che è più facile credere alla favola piuttosto che alla realtà, alla cruda realtà. Ma il punto di caduta secondo me è la fiducia, cioè la crisi di sfiducia, la crisi di, diciamo, di fiducia nelle istituzioni e nelle regole che possono garantire e da un lato tutelare i pazienti, ma soprattutto dimostrare che si sta davvero lavorando per affrontare e risolvere problemi gravi come quelli sanitari. Insomma, noi siamo un paese che non investe in ricerca scientifica, i livelli di istruzione scientifica e alfabetizzazione scientifica in Italia sono tra i più bassi ed è inevitabile, insomma, per capire come funziona la democrazia ha delle regole, ha dei principi generali. Un partito non può essere scambiato per una setta, e secondo me le sette non dovrebbero essere. Sa qual è il problema, professor Corbellini? Faccio sempre l'esempio del servizio di Domenica delle Iene. Assieme al servizio su Stame è andato un servizio terrificante di un medico, di un chirurgo, di una nota clinica pediatrica romana, che in qualche maniera proponeva a una famiglia disperata di fare lo stesso intervento privatamente pagando 38.000 euro quando potevano farlo tranquillamente a costo del servizio pubblico. Quindi di fronte a questo sembra, ma allora tu stai dalla parte dei baroni, degli sfruttatori, dei delinquenti. No, ma guardi che la questione è che non esistono. Capisci la difficoltà? Non è proprio... esistono trattamenti di questo genere, cioè la comunità scientifica ha detto molto chiaramente che questi trattamenti, che li faccia il metodo Stamina, che si facciano in Thailandia o in Cina o in Ucraina, eccetera, questi non sono trattamenti, non hanno basi sperimentali, non vi sono prove sperimentali, quindi dimostrazioni che questo tipo di cellule abbiano una qualche efficacia su alcun tipo di malattie. Conosciamo solo tre condizioni su cui le cellule staminali sono risultate efficaci. Questi trattamenti già si fanno, i trapianti di midollo, si fanno i trapianti di cornea, eccetera, in questi casi funziona, in tutti gli altri casi siamo di fronte a delle truffe e a delle manipolazioni che fanno le... Il fatto che dica la famiglia che vede dei sintomi di miglioramento concreti, reali? Ma cosa vuol dire sintomi? Ma i sintomi di miglioramento devono essere misurati, cioè il metodo scientifico, la sperimentazione clinica funzionano esattamente perché si toglie tutto l'elemento di soggettività e di illusorietà che spesso danno le esperienze, quello che le famiglie vedono. In molti casi, quando poi sono stati visti da dei medici e sono stati misurati oggettivamente questi miglioramenti, non è che si può basare sulle impressioni, cioè dobbiamo avere dei riscontri oggettivi dei miglioramenti. Questi riscontri oggettivi non ci sono, le impressioni dei familiari sono influenzate dalle emozioni e giustamente dal desiderio di vedere questo miglioramento, ma non è così che si accerta l'efficacia di un trattamento. Fermiamoci solo un istante, professor Corbellini, devo dare la linea all'informazione del traffico, poi riprendiamo con i nostri ospiti. Melog, la realtà condivisa. Riprendiamo velocemente il tema interrotto pochi istanti fa con il professor Corbellini, con Stefano Morigi, proprio per chiudere questa fase della nostra riflessione. Quanto l'aspetto emotivo, la moltiplicazione attraverso la rete, la posizione di elementi forti basati sul senso che finalmente qualcuno la dice giusta quando tutti scelgono la versione delle tenebre, sia un fenomeno che in realtà va osservato con un occhio di attenzione. Bisogna sempre pensare, per quanto si possa immaginare che l'umanità è disfatta, che l'uomo è soggetto alle proprie concupiscenze, che comunque esiste una comunità scientifica, esistono i protocolli accettati, esiste una forma di tutela. Stefano Morigi. Sì, non si capisce che i protocolli scientifici, oltre che una garanzia alla ricerca e alla sua libertà, sono una tutela nei confronti dei pazienti. Diceva giustamente Corbellini che in Italia si investe in poco in scienza. Aggiungo io che l'educazione scientifica, oltre che le competenze scientifiche, purtroppo sono praticamente inesistenti come concetti e come pratiche, e questo porta inevitabilmente e scorrettamente a lavorare sulle emozioni e a confondere speranze con illusioni. Le speranze sono fondate su delle evidenze, le illusioni sono fondate su delle bufale. Però sai qual è, Stefano, la differenza? Ti dico proprio da filosofo, ti chiedo una risposta. Tutto ciò che comunque prima era definito in un'area di discussione che esisteva, che comunque aveva il suo peso, però non affiorava mai in superficie, oggi è a piena luce. Io, conoscendo la mia situazione, che mi sento adesso mandare continuamente mail di persone, dice, visto, sono i vaccini che hanno fatto diventare tuo figlio autistico, oppure gente mi consiglia le terapie di berzilurina per guarire da tutti i mali possibili del mondo. Queste erano tutte cose che rimanevano comunque circoscritte in dei luoghi di discussione, ma mi dà l'impressione che la stessa meccanismo dei gattini abbandonati, però applicato agli esseri umani, questo un po' mi preoccupa. Sì, il problema è che quanto più l'accessibilità o la partecipazione al dibattito pubblico è ampia, tanto più dovrebbe aumentare la competenza degli attori di questo dibattito. Non è una regola della tecnologia, è una regola appunto della democrazia. La democrazia è un modello che non sta in piedi da solo, sta in piedi e rimane tale quanto più chi vi partecipa si assume come diritto e come dovere quello dell'informazione e della competenza. Quanto meno questo succede, tanto più si è vulnerabili rispetto a operazioni scorrette, e queste sì spietate, che finiscono appunto per confondere l'illusione con la speranza. Vincenzo Cosenza, ricordo responsabile di blogmeter.it, che è il servizio di ascolto che valuta, misura nei social media quello che accade nel paese. Cosa sta accadendo allora in sintesi rispetto a quello che ci siamo detti finora? Tu vedi delle flessioni in queste ultime settimane, in quelli che sono i flussi di pensiero che si muovono nei social media? Sta cambiando qualcosa? Aumenta il consenso? Aumenta l'interesse rispetto alle idee che sono sempre circolate in circuiti chiusi nella rete? Come dicevi tu, giustamente, più che aumentare sono rese più visibili, ma secondo me in questo c'è bisogno da parte di ognuno di noi, soprattutto di chi appunto ha studiato, ha dei documenti e può provare la debolezza di queste tesi, di intervenire nel dibattito, di farsi sentire, quindi non soltanto di, come dire, in qualche modo denigrare la rete o questa nuova ondata di pensiero, ma intervenire attivamente nelle discussioni che magari sono prive di Dice una cosa molto giusta, sai Vincenzo, questo nessuno aveva detto. Poi alla fine i mondi rimangono separati, astratti, perché illustri studiosi come il professor Corbellini o altri, sì, poi fanno i loro documenti, prendono le loro posizioni pubbliche, vanno nei giornali, ma non è che poi si aprono il loro profilo su Facebook e fanno quel lavoro che noi ben conosciamo, che è faticoso, che è costante, che è continuo, di presenza concreta e reale nella rete. Forse abbiamo ancora una classe di pensiero strutturato che però non ha fino in fondo deciso di infangarsi i pantaloni entrandoci dentro. Esatto, è proprio quello che volevo dire, c'è bisogno di una nuova forma di responsabilità, di sporcarsi le mani un po' con il dibattito in rete, non snobbarlo come magari siamo un po' abituati a fare. Alessandro Lanni, docente giornalismo politico alla Sapienza, sei d'accordo anche te su questa idea che forse sarebbe ora, visto che ormai è esploso il fenomeno di rete, è arrivato in superficie, è arrivato nei titoli dei giornali, che chi ha qualcosa da dire, chi ha forza e sedimento delle proprie idee, debba entrarci dentro, cioè ci debba perdere tempo? Guarda, sono straconvinto di questo, sia per quel che riguarda, diciamo, l'elite intellettuale, sia per quel che riguarda tutti quanti noi, a partire dai ragazzini, cioè che possono utilizzare la rete in maniera anche semplicemente ludica e di intrattenimento, ma iniziare fin da loro a far capire che un certo tipo di educazione all'uso, all'utilizzo e alla fruizione di questi strumenti va imparata in qualche modo. Ma sai la cosa interessante, forse anche divertente ma anche tragica, che in realtà le nuove generazioni, i nativi digitali, quelli che abbiamo visto e acclamato come la nascita di una nuova forma di umanità, sono anni luce lontani da quelli di cui stiamo parlando adesso. Questo è un dibattito da 30-60enni secondo me, per la fine gli altri ormai per loro non esiste più il confine geografico, per loro è il mondo e si muovono su altri spazi, o forse questa è una mia visione romantica? Sì, non lo so, però io mi immagino quando si ascolta l'affermazione che i vaccini provocherebbero, diciamo, l'omosessualità, no? Ecco, sì, quindi, è stato ampiamente dibattuto in questi giorni, è stato folcloristico. Poi, sai, tutti ne facciamo uso perché è divertente, fa notizia, trovare lo scemo di turno che ci viene a dire questa cosa qua, capito? Quindi sì, però diventa notizia, assume credito. Ecco, io credo che sia verissimo quello che stai dicendo, credo anche che comunque è un esperimento, una cartina tornasole per vedere il meccanismo della rete, no? Per vedere come si diffonde, poi una cosa che magari anche 15 anni fa poteva essere già stata detta, ma rimaneva nella piazza. Grazie Andrea Rossetti, grazie a Stefano Morigi, Vincenzo Cosenza, Alessandro Lanni, Gilberto Corbellini, naturalmente il professor Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti.